Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Basterà un semplice prelievo del sangue per individuare le caratteristiche genetiche che influenzano a livello individuale il rischio di diventare dipendente dal fumo di sigarette e la difficoltà a smettere di fumare. Lo studio, realizzato dai ricercatori dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, porterà a definire trattamenti personalizzati. A Obiettivo Salute il dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia e del centro antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori. È una cosa nota che la maggior parte dei fumatori vorrebbe smettere di fumare, ma purtroppo da solo non sempre ce la fa. Poter individuare meglio la cosiddetta diagnosi del fumatore, quindi capire le persone che fanno più o meno di fatica a smettere di fumare e a non ricadere, potrà aiutarci sicuramente in futuro a personalizzare meglio le terapie, la durata dei trattamenti farmacologici e del supporto psicologico per ottenere dei migliori risultati. Quindi una mano al medico antifumo, ma prima di tutto un grosso aiuto per i fumatori che vogliono riuscire finalmente a smettere. Se volete saperne di più, ascoltate l'approfondimento sulle pagine di Obiettivo Salute sulle terapie più efficaci per smettere di fumare. Sempre più bambini e adolescenti soffrono di patologie conseguenti all'obesità, sinora sconosciute nell'infanzia, come ipertensione, colesterolo elevato, diabete di tipo 2. I pediatri lanciano l'allarme e avvertono: per la prevenzione sono decisivi i primi 1000 giorni di vita. A Obiettivo Salute il professor Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria. L'obesità si è sempre ritenuto che fosse un problema solo dell'adulto. Purtroppo negli ultimi lustri si è visto che riguarda anche i bambini sin dall'inizio dell'infanzia, e quindi è molto importante avere molta attenzione già nei primi 1000 giorni di vita. Quindi è importante la mamma durante tutta la gestazione e i primi 2 anni di vita. In quei momenti curare l'alimentazione ed evitare l'eccesso alimentare è fondamentale. Altro aspetto molto importante è avere attenzione ai chili di troppo. Le mamme talvolta sono contente nel vedere il bambino un po' robusto, in realtà quello è un segnale pericoloso che deve essere subito recepito e le mamme devono interessarsi e parlare con il loro pediatra. Sulle pagine del programma il decalogo anti-obesità dal concepimento per l'intera vita. Tra poco vi aspetto, come ogni giorno, in diretta video insieme al professor Dino Vaira, parliamo di intestino. Attenzione e precauzioni per renderlo sano, efficiente e felice. La programmazione di Radio 24 invece continua con Melog. Io vi do appuntamento come sempre a domani a Obiettivo Salute a mezzogiorno, quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.